La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 8 di dicembre, Immacolata, giorno di festa, il giorno in cui parte il giubileo straordinario. Avete visto le immagini stamattina, immagino molto alcuni di voi, con la cerimonia pontificale, l'inaugurazione di questo giubileo straordinario dedicato alla misericordia. E in questo giorno particolare in cui intorno al giubileo però si vivono gli interrogativi di un paese, di un'Europa colpita in profondità nelle sue certezze, il terrorismo, ISIS, il disastro sul Medio Oriente, il Nord Africa e così via. Mi sono detto, volgiamo la nostra attenzione, approfittando del fatto che è un giorno di festa, a qualche cosa che sta fuori dalle cronache quotidiane. E cerchiamo di prestare il microfono al racconto di un pezzo fondamentale che ogni giorno costruisce dal basso non solo l'identità italiana, ma soprattutto l'idea della coesione di una comunità del nostro paese. Devo l'idea, come spesso capita, e per questo vi ringrazio cari ascoltatori, ricordo sempre l'indirizzo, la versione di Oscar chiocciola radio24.it, a un ascoltatore che è diventato anche amico assiduo negli anni, Marco Boldrini, che mi ha detto: ma perché non fai raccontare qualche volta l'esperienza reale di che cosa significa vivere in prima fila, con impegno professionale e anche civile, la realtà di scuole italiane che si trovano a operare nella classica realtà italiana delle periferie della grande metropoli, in cui si concentrano il più dei problemi, di cui poi i giornali si occupano solo quando esplodono o per mancanza di comprensione reciproca tra comunità, o perché c'è terrore e diffidenza, o perché ci sono problemi di, oltre che di diffidenza, anche di intolleranza. La realtà è che poi bisognerebbe, mi ha detto Marco, forse capire qual è la realtà vera in cui si costruiscono invece, o almeno si tenta di farlo con le risorse a disposizione, dei percorsi di crescita, dei percorsi di integrazione. I giornali e voi dell'informazione, mi dice Marco, vi occupate della scuola, la primaria, la secondaria, la scuola superiore e poi l'istruzione terziaria, l'università, solo quando ci sono le grandi riforme per le assunzioni, solo quando ci sono le polemiche annuali sulla legge di stabilità, ma siete un po' disattenti nel capire come è cambiato questo mestiere di fronte, ovviamente, al cambiamento profondo e radicale in questi anni del tipo di ragazzi che arrivano nelle scuole della Repubblica. Mi è sembrata, devo dire, una buona idea. Non è un'idea retorica, sia pur io appartenendo a una generazione in cui nei banchi della mia scuola elementare, in una realtà della periferia operaia di Torino, c'era una forte immedesimazione ancora con dei valori, se posso permettermi, del passato. Noi siamo ancora cresciuti nei primissimi anni 60 con l'idea del cuore, del mondo dei amici. Quella era ancora la Torino di riferimento, sicuramente sorpassata rispetto ai guai che noi vivevamo all'epoca. Nella mia stessa scuola elementare c'erano, non erano immigrati extracomunitari, ma erano immigrati del sud Italia ripetenti, con anni incredibili. Avevo, mi ricordo, in quinta elementare dei ragazzi 14enni e 15enni, cioè, stiamo parlando di insuccessi dello Stato che ho toccato con mano quando ero piccolo in un percorso formativo, con i metodi di allora erano evidenti ed erano clamorosi, perché significava vite sprecate, significava il radicamento della differenza per reddito come percorso e progetto di vita. Ecco, quindi insomma, io mi ricordo che cosa era, però ovviamente l'Italia in cui sono cresciuto io era un'Italia profondamente diversa da questa. Allora, proprio per questa ragione, abbiamo scelto un istituto che è a Cinisello Balsamo, quindi stiamo parlando della periferia della grande area supermetropolitana milanese, e quindi in una realtà sociale ad alto tasso di modificazione in questi anni, innanzitutto per le che vi sono rappresentate, e io ringrazio molto due insegnanti di questo istituto, è l'istituto Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo. Stiamo parlando di un istituto che ha quelle che si chiamavano un tempo le scuole medie e le scuole elementari Anna Frank, e sono con noi per parlarci un pochino di come è cambiato il mestiere e di che cosa sono in concreto gli strumenti a loro disposizione e come si impegnano al di là degli strumenti anche con progetti che guardano al di là dell'Italia. Con i loro ragazzi, due insegnanti. Abbiamo Claudia Bassanini, che insegna lettere all'Istituto Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buongiorno, grazie a voi. E Francesca Laudone, che è la responsabile del coordinamento dell'alfabetizzazione degli alunni stranieri presso l'Istituto, appunto, sempre Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo. Grazie Francesca di essere con noi. Grazie a lei, e prima di tutto vorrei dirle che è veramente un piacere e un onore poter parlare con lei. No, ma sì, perché lei è un personaggio che si distingue al di là della massa, capito? Per cui l'ho sempre ammirata. Grazie. Me lo lasci dire? No, non glielo voglio lasciare dire, perché è il contrario. Cioè, io temo che i personaggi di cui dobbiamo riconoscere i meriti sono le tante persone come voi. Ce ne sono decine, centinaia di migliaia. Questo milione di dipendenti della pubblica istruzione che noi giornalisti pratichiamo solo per il costo, per così dire, e io sono uno di quelli, e in realtà vera poi spesso noi non ci occupiamo di farvi dire che cosa vi si chiede di fare in un paese che poi sperimenta sui giornali appunto i motivi della mancata integrazione, le diffidenze, la politica che ci monta sopra le cavalca, e invece voi avete un altro punto di vista. Allora, Claudia Bassanini, lei da quanti anni è in questo istituto? Allora, io sono in questo istituto da 8 anni e insegno da 15, quindi in realtà sono relativamente giovane per il tipo di insegnante che oggi si trova nella scuola. Quindi quando lei è arrivata all'insegnamento 15 anni fa, insomma, era già una realtà non scevra di problemi. Allora, sicuramente non era una realtà scevra di problemi, però è vero che l'immigrazione in questi anni è cambiata tantissimo. Se 8-9 anni fa i ragazzi provenivano da città sostanzialmente e c'erano tantissimi, ad esempio, sudamericani, c'erano tanti arabi sudamericani, tantissimi ragazzi che venivano dall'Asia, in questo periodo invece c'è una grandissima concentrazione di arabi, perché i sudamericani e gli asiatici tendono a tornare nel proprio paese a causa della crisi, per cui non trovano lavoro, i genitori non trovano lavoro e c'è proprio un ritorno nel proprio paese. Invece gli arabi, che hanno una fortissima rete di sostegno economica, tendono a rimanere. Infatti nel nostro istituto ci sono tantissimi arabi, c'è una concentrazione di arabi molto alta. Quando lei dice tantissimi, ci dà un'idea di quanti ragazzi sono e di quali sono più o meno le etnie rappresentate, in che percentuale? Allora, lei pensi che io ho avuto classi in cui su 20-22 ragazzi c'erano 5 italiani. 5 italiani? Sì. E i ragazzi sono sostanzialmente arabi, tantissimi egiziani, ma non solo. Tanti anche dell'Africa subsahariana, soprattutto Senegal da noi. Poi abbiamo filippini, ma non più tantissimi, alcuni cinesi, anche se nel tempo comunque sono molto diminuiti. E appunto i sudamericani un tempo erano veramente tanti, adesso invece sono decisamente meno, per cui abbiamo 2 o 3 sudamericani in una classe. Ma come anni rispetto alle classi che frequentano? Sono in linea con un percorso ordinario di espletamento dell'obbligo scolastico o sono in ritardo? Allora, il problema non è tanto se siano in linea, quanto la conoscenza della lingua. Sì. Perché ovviamente arrivano di qua, se per un ragazzo sudamericano è molto facile imparare l'italiano, per cui può tranquillamente imparare l'italiano dello studio, per un arabo è molto più difficile, per cui ci mettiamo anche 2-3 anni per far sì che questi ragazzi possano cominciare ad imparare a studiare sui nostri testi. È vero che ci sono i mediatori, per carità, nulla da dire, però è anche vero che loro fanno proprio tanta fatica. Infatti un grosso problema è quello all'esame di terza media, quello degli Invalsi, perché l'Invalsi non considera che questi ragazzi ci mettono 2-3 anni per imparare l'italiano, e invece considera neo arrivati solo quelli arrivati da un anno. e capisce che non ha senso, no? In un percorso scolastico. Quindi sono anche in linea. Posso chiederle, non sarebbe il caso, visto che oramai insomma siamo dall'inizio degli anni 90, che noi siamo come Italia investiti da un fenomeno che è arrivato fino a un massimo di arrivi l'anno prossimo, quest'anno saranno meno del 2014, incredibilmente, ma è così. Però noi siamo arrivati nel 2014 ad avere quasi 140.000 nuovi arrivi. Però oramai è dagli anni 90 che c'è questo fenomeno. Non era il caso in tutti questi anni che il sistema scolastico si rendesse conto che quello che lei ci ha appena detto meriterebbe una modifica di come funziona, cioè tenere conto che esistono tempi specifici per comunità diverse di origine per una cognizione media accettabile della lingua italiana? Allora, è vero che la scuola vive di tempi tutti suoi, per cui è un sistema che si rinnova con grande difficoltà, però è pur vero che ogni singola realtà cerca di adottare delle strategie particolari e disegnate sulle proprie caratteristiche. Ad esempio, da 2 anni noi utilizziamo l'inglese come lingua di inclusione, cioè l'inglese permette di far sì che nelle nostre classi tutti siano allo stesso livello, no? Per cui anche facciamo progetti in inglese che permettono di studiare attraverso la metodologia CLIL, di studiare ad esempio storia, geografia, utilizzando l'inglese e facendo sì che tutti partano da un percorso, da un punto comune, e utilizzando l'inglese non soltanto imparino il contenuto della disciplina trattata, ma utilizzano anche una lingua che sarà fondamentale per il proprio futuro. Io mi ci trovo molto, immagino che alcuni dei nostri ascoltatori e magari qualche politico direbbe come allora l'inglese, non l'italiano. Io mi ci trovo molto in questo schema, perché è uno schema, per così dire, che consente di leveling the playing field, di appianare il piano su cui si gioca, per così dire, e però dandogli uno strumento che poi serve a tutti. Francesca, ci spiega cosa vuol dire responsabile del coordinamento dell'alfabetizzazione degli alunni stranieri? Cioè lei cosa deve fare? Coordinare appunto che i livelli siano sufficientemente adeguati con strumenti diversi? Ma non solo questo. Allora, io nasco come docente facilitatrice d'apprendimento circa una decina di anni fa. Lo Stato era, diciamo, abbastanza attento verso questa dinamica dell'immigrazione, nel senso che aveva dotato ogni istituto di un facilitatore, cioè di un docente distaccato, per poter alfabetizzare questi alunni stranieri. La nostra periferia, diciamo così, la nostra scuola è ubicata in una periferia con 6 plessi distaccati, ognuno con dinamiche diverse, con risorse diverse e con storie socioculturali diverse. La scuola media e la scuola primaria Anna Frank e Sardegna sono ubicate nella periferia dove c'è un alto tasso di immigrazione. E questi ragazzi che arrivavano, come diceva prima appunto Claudia, c'è stato un fenomeno di immigrazione abbastanza diverso, nel senso che prima era, come diceva lei, l'immigrazione dal sud, perché qui alla periferia di Cinisello sono nate diverse fabbriche, per cui c'è stato il fenomeno dell'immigrazione. Sono nati dei casermoni, per cui ecco che si è formato una specie di ghetto. Dopodiché il fenomeno dell'immigrazione è passato agli extracomunitari e comunitari, e abbiamo avuto cinesi, arabi non molti all'inizio, più cinesi, più, come diceva Claudia appunto prima, filippini, Bangladesh, sudamericani tantissimi, Europa dell'Est, e quindi avevano bisogno di un'alfabetizzazione della lingua del qui e ora, quella che serve per la sopravvivenza. Per cui nasce il ruolo del facilitatore. Il facilitatore, io in questo caso, non ho fatto altro che cercare di adottare strategie e metodologie innovative per offrire a questi ragazzi la possibilità di imparare la lingua italiana. Per cui è nato un protocollo accoglienza, sempre con la collaborazione del comune, che ci ha offerto i mediatori, e quindi è nato questo protocollo in cui i ragazzi hanno tutta una serie di attività per riuscire ad imparare la lingua della sopravvivenza. Allora aspetti un secondo, torniamo tra un minuto e le do la parola, perché la mia curiosità è quella che possiate spiegare se questi protocolli perdonate ascoltatori che ho problemi di raucedine, ma se questi protocolli nascono e vengono attuati nella sperimentazione, cioè è ogni singolo istituto che fa delle proposte e può avere percorsi diversi o c'è una standardizzazione? La risposta però Francesca me la dà tra un minuto, perché interrompiamo per informazioni sulle strade. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta questo 8 dicembre e avete sentito la prima parte della trasmissione. Oggi diamo voce a delle operatrici scolastiche, delle docenti, a delle organizzatrici dell'offerta di formazione pubblica nel nostro paese, facendole descrivere che cosa significa, come è cambiato nel tempo la metodologia con cui la Repubblica si trova a dover dire a dei ragazzi nella scuola elementare, alla scuola media, che provengono da paesi del mondo molto diversi, tentiamo di percorsi che sono di omologazione verso l'alto della qualità, che sono il presupposto poi dell'integrazione. Allora, eravamo arrivati con Francesca Laudone, che è responsabile del coordinamento dell'alfabetizzazione degli alunni stranieri presso l'Istituto Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo, di cui stiamo parlando, nel chiederci: ma questi protocolli voi li realizzate sperimentando e adattando a situazione a situazione, di istituto in istituto, oppure c'è una, per così dire, un modello standard? No, non c'è un modello standard. Ogni istituto sperimenta la propria metodologia per poter fare un'inclusione vera e propria di questi alunni stranieri. Noi siamo i pionieri di questa forma di adattamento, per cui siamo un po' il punto di riferimento di tutta il circondario, di tutto Cinisello e oltre, perché abbiamo adattato, abbiamo fatto un protocollo accoglienza che, sperimentato nel tempo, abbiamo visto che funzionava, per cui noi sappiamo perfettamente che i ragazzi stranieri, soprattutto arabi e cinesi, che non è una lingua neolatina, hanno bisogno, attraverso studi, di 2 anni per poter imparare la lingua della sopravvivenza e di 5 anni ci vogliono 5 anni per imparare la lingua dello studio. Mamma. Per cui, quindi noi abbiamo adattato il nostro protocollo accoglienza alla nostra utenza, sperimentato, funziona, per cui tutti gli altri istituti hanno adottato lo stesso tipo di protocollo accoglienza. Posso chiedere dall'iscrizione? Va dall'iscrizione, va ai primi 2 mesi di full immersion della lingua italiana, sempre con un facilitatore distaccato, chiaramente, perché altrimenti bisogna recuperare i momenti in cui siamo più o meno liberi, dall'insegnamento, e non è facile oggi, perché ci hanno tolto le compresenze, perché non abbiamo più ore e via discorrendo. Per cui i primi 2 mesi fanno una full immersion di italiano nel laboratorio. Un laboratorio è un luogo in cui i ragazzi vivono un clima rilassato, alla loro portata, per cui riescono perfettamente a interagire fra di loro e a imparare quelli che sono i primi rudimenti della lingua italiana. Ma nel contempo non è una classe ponte, assolutamente, perché fanno alcune ore nel laboratorio. Il resto, per esempio, non lo so, ginnastica, piuttosto che musica, piuttosto che le discipline che servono per la socializzazione, loro sono in classe con gli altri ragazzi. Certo. Sì, prego. Volevo chiedere a Claudio Bassanini, questi percorsi sperimentali, negli anni avete sperimentato che qual è il livello di, come devo dire, compartecipazione o quantomeno di interazione con le famiglie che esprimono etnie così diverse di questi ragazzi? Allora, per noi, e stiamo parlando della secondaria di primo grado, è fondamentale avere un rapporto con le famiglie, cioè il rapporto con i ragazzi passa attraverso anche un buon rapporto di collaborazione con le famiglie. Ci sono spesso famiglie che non sono abituate a partecipare, non dico alla vita di scuola, però insomma ad avere un rapporto concreto con gli insegnanti, perché vengono da altre culture. però noi li stimoliamo tantissimo, li chiamiamo a scuola, li facciamo partecipare ad alcuni momenti della vita scolastica affinché capiscano che è una collaborazione l'apprendimento, non è soltanto mettersi in un banco e leggere o studiare, perché soltanto se i ragazzi stanno bene e le famiglie credono nel nostro metodo di insegnamento si può arrivare ad avere risultati efficaci. Ma fenomeni di contestazione dichiarata del modello e del modo in cui si facevano attività comuni, si proponevano percorsi formativi, magari per l'appartenenza o per convinzioni culturali, etniche, religiose diverse, li avete sperimentato o no? Guardi, l'unico grosso problema purtroppo nella nostra scuola è la mancanza magari di capacità economiche, per cui spesso non riescono a comprare libri oppure non si hanno possibilità di ampliare l'offerta formativa per appunto mancanza, per indigenza, ma non ci sono mai state mai contestazioni di nessun tipo, anzi i genitori ci hanno sempre ringraziato per quello che facciamo e sinceramente questa telefonata è una prova, no? Della collaborazione con i genitori, del fatto che tutto sommato loro riconoscono il nostro ruolo. Sì, perché è venuto appunto da genitori la segnalazione. Infatti. È così, è assolutamente così. Sì. Posso chiedere a Francesca Laudone le risorse che avete a disposizione? Stiamo parlando di cose concrete, cioè denari e strumenti. E ci faccia capire, perché il problema è che chiedervi miracoli sono buoni tutti, però poi i miracoli non siamo attrezzati se non ci sono le risorse. Allora, le risorse sono ben poche. Lei, come sa, ben saprà, il tanto il FIS, che è le risorse che lo Stato dà all'istituto, è diminuito nel tempo fino a essere addirittura dimezzato. Se lei pensa che in una scuola come la nostra, in cui c'è il 70% di utenza straniera, non abbiamo più neanche il facilitatore, la figura distaccata, per cui io devo fare i salti mortali per ordinare, per avviare il laboratorio di alfabetizzazione, cioè nel tempo queste figure sono andate via via dimezzandosi. La risposta del MIUR al perché il facilitatore, noi in una scuola come la nostra non ha più il facilitatore, la risposta è: ma c'è il potenziamento. Se lei pensa che il potenziamento della cosiddetta buona scuola, a presente di che cosa parlo, sì, nel sì, senso sì. Che non credo stati tutti i nostri ascoltatori, quindi lo ridica in breve. Lo so. Allora, brevissimamente, sono stati messi in ruolo 100.000 persone, in più hanno offerto la possibilità a ogni istituzione scolastica, attraverso un piano di miglioramento fatto da noi, da un'equipe all'interno dell'istituto composta da docente e dal dirigente, chiedere delle persone in più per ampliare l'offerta formativa. Okay? Questo potenziamento, noi avevamo chiesto musica inglese, due docenti di musica, due docenti di inglese, va bene, le dico in breve che cos'è il potenziamento. Sono tre docenti di scuola primaria che noi in qualche modo dobbiamo utilizzare, questo è il potenziamento per quest'anno. Ok? E loro hanno detto: vabbè, non vi diamo il facilitatore, utilizzate il potenziamento. C'è, Claudia, la possibilità di darvi una mano per dei privati che decidessero: beh, queste persone fanno delle cose di tale risultato, sono diventate un punto di riferimento, le risorse pubbliche sono meno, come si fa a darvi una mano, Claudia? Guardi, venendo a parlarci per vedere un po' che tipo di attività facciamo, quindi sicuramente venendo a conoscere la nostra realtà, per capire effettivamente che cosa facciamo quotidianamente e se proprio darci la possibilità di comprare ad esempio i libri, perché spesso nelle classi non si hanno, ad esempio i miei libri io li lascio sempre in classe affinché i ragazzi possano portarli a casa, e capisce che prima parlava della periferia torinese, capisce che le problematiche sono andate ben oltre. Ah, certo. No, basta farsi un giro in metropolitana. Adesso, chiunque sia in Italia dovrebbe capire, secondo me, che le tante migliaia di Claudio Balzanini e di Francesca Laudoni sono i veri operatori della costruzione di una comunità non solo coesa, ma che abbia poi in sé l'offerta formativa, significa un moltiplicatore dell'attrattività, della produttività, della capacità di vivere insieme meglio per dare il reddito. Ecco, io è pochissimo il tempo che abbiamo avuto, ci sono centinaia e centinaia di scuole così, tenteremo di replicare. Grazie per quello che fate, ma soprattutto qualcuno in ascolto si metta la mano sulla coscienza se ha tanti soldini, perché queste scuole hanno bisogno di sostegno concreto, ne va di tutti noi.